ma in via di estinzione. Tigre coglioni fame, sta leggendo che di me non avrei neanche una brama. Lascio la mia scia in compagnia di sentenze genchi. Sintonia e frequenza dando un altro cuore che pompa, che scorre un altro pensiero che corre, un altro fratello pronto allo scontro. Hardcore, hardcore, di più infame, hardcore. Capisci? Ex studio, ma del beat solo versi schietti per i pezzetti di merda. Ehi, nel tempo cominciate a cercare un santo, perché le tigre sono incazzate in tutte in realtà. Doma cicalogna, doma cicalogna. Non c'è gabbia, non c'è chi ci tiene, sempre cerca di nuove prede. Non metterci bastoni fra gli artigli, conigli. Queste sono le mie mosse, famiglie tue. Ora fammi scacombato se ti ci riesce. La mia arriva ti mette a KO e ti finisce, perché è arrivata l'ora della tua condanna. Il microfono alla rima in canna, spara bar, spara bar, la condanna. Torna indietro, le cambio il culo come un boomerang. Ne sarò la faccia e tu la beverata del mio slang. Non c'è niente che tenga, i miei ideali non stanno su figurini green e con l'affare marcio. Un compagno perso, due conquistati. Tanti fatti, temi sfatti, questi sono i dati che ti metto in faccia. Che c'è pure la tua merda, marcio, marcio sul tuo corpo miserabile. Ricordati di questa faccia, ricordati di questa faccia, figlio di puttana. Finza che duro casa fondo, finza che duro casa fondo. Cresciti come che fungo, poco fuoco e su sacco il canaglia che raglia mitraglia. Che sentenza è questa che è? Poco fine con un passo che spara sentenza per tu sacchi. Questo mondo tanto tonta, sì che tonto, casa fondo e un fichi ricci. Benvenuto, benvenuto, benvenuto, benvenuto, a terra delle ieri. Benvenuto, benvenuto, benvenuto, a terra delle ieri. Benvenuto, benvenuto, benvenuto, a terra delle ieri. Benvenuto, benvenuto, per te sono il minuto. Adesso entro io con lo Shun SL58. Potenza di fuoco, efficace di una Water P38. Sempre a caccia del topo di fogna, della vergogna, della menzogna, chiamato sucker, chiamato carogna. Tu chiamalo b-boy, chiamalo come cazzo vuoi. Arriva tana di le tigre, adesso la cura te la diamo noi. Si torna le tue boccine a grugnire come un maiale, porco infame e vile. Te li infilo su per il culo il tuo vinile. Con una vita sempre in bilico, non ti temo più perché sono diventato cinico. Ne voglio 10 di voi, sì 10 come un numero civico. Queste sono le gocce che hanno fatto traboccare il vaso del duello atroce. A suon di beat veloce ti darò i colpi di grazia come una bestia feroce. Chiamami bastardo, chiamami bastardo, ma scappa codardo finché sei in tempo. Li sono senti soldi, arriva il combattimento. Suona la carica del settimo cavalleggeri, cambia la musica, adesso gli ho i coglioni pieni. Con i campi di SS sentenza, le storie per voi non saranno più le stesse. Tutto sta in frequenza, perché per me fare ancora un'esigenza. Sentenza, la scia. Sì, il patto è stato stretto, canna delle tigre in pieno effetto. Posso e preparati per la lezione. La marmaglia gran completo con i valori dell'opposta fazione. Ultimato per l'MC condotto, ti conviene fare fagotto e spartire i tuoi soldi sporchi con tutti gli altri porci. Giuda, lo buon consiglio, date alla fuga. Coniglio, è meglio che tu emigri. Questo è benvenuto di tana delle tigri. In fuga dalla merda, West made in Italy. Con Liquetex in una guerra contro il blef. Ogni per sé, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Pezzo di belle, levati dal re. Te lo ripeto, torna nel tuo mondo perfetto. Io sto in assetto ad aspettare lo sconcetto. OTT, te l'ho già detto, maledetto. I valori sono inquieti e con giochi scodetti a denti stretti. Negli MC fighetti noi troviamo i difetti. Nella scena siamo i soliti sospetti. Che cosa aspetti? Brutto figlio di una cagna. Il mio onore è per una figa che si bagna. Sogno, fiaccolate di bastoni. Un'armata con i gladiatori da palco con i conto coglioni. Per fottere le vostre crudi dannati cloni. Maledetti impostori, truffatori, palloni, gonfiati, pagliacci e succhi a cazzi. Scappate da qua se non volete che vi balliamo sulla schiena. Cia cia cia. Hardcore come mio DNA, come mio slang. Hardcore di un film di Kelly Tramp e Sylvia Sand. One shot, one kill, a colpo sicuro con i piedi in culo e a muso duro con chi se l'è scampata. Ora i 10 calma piatta, pronti per la fiaccolata.